Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, le 8 e 19 minuti. 11 luglio, cari ascoltatori. È il mondiale dell'82, l'11 luglio, lo so. Dove eravate? Dove eravate? Tu dove? Io ero a Sesto San Giovanni, avevo 11 anni e poi sono andato con i fratelli così a festeggiare per le strade. Lei dell'82, governo Spadolini per me, figurati. Quindi una... Eri già al governo, no, capite chi conta? Governo. Facevo giovanissimo ragazzo che da dietro le quinte assisteva lavorando tutto il giorno con diciamo crescente stupore, imbarazzo, totale curiosità che cos'era davvero il paese Italia dietro le quinte, dietro la scenografia del potere, ed era abbastanza terrificante. Molto terrificante. Tra inflazione, terrorismo, violenza, insomma. Ti ho bruciato l'anniversario di oggi, però. Mi pare più che giusto. Ma ti dirò che oggi, tanto il santo è un santo fondamentale, ecco, perché noi ne ricordiamo tanti, però quelli poi importantissimi non è che siano poi davvero tutti i giorni. San Benedetto di Norcia è quello che mette sulle sue spalle, con la sua regola benedettina, il trasbordo dalla fine dell'impero romano all'idea stessa di Europa nel Medioevo, ma fino al Rinascimento sarà così, con le sue oltre 1000 abbazie e monasteri che con la sua regola si creano in tutta l'Europa occidentale. Quindi San Benedetto di Norcia è veramente un pilastro della nostra cultura. Non avremmo recuperato una parte fondamentale di quello che resta della cultura occidentale antica se non ci fossero stati quegli oltre 1000 monasteri che nascono da questo signore che studia, ma poi fonda questa idea che è centrale nel monachesimo occidentale, cioè non solo la contemplazione di quello orientale, ma l'azione per la cultura, nella società, per chi ha meno, e quindi è un santo fondamentale. Ma ti dirò che oggi per me invece l'anniversario, a proposito di un'Italia terribile, è quello relativo all'assassinio di chi? Di una figura che a me è sempre sembrata un eroe vero di un'Italia che non esiste, purtroppo, se non nella testa di pochi, perché oggi è l'anniversario, nel 1979 veniva ucciso a pistolettate da un mafioso americano, assoldato, non sappiamo ancora se da Sindona o da Andreotti, però insomma più o meno quella è la coordinata, Giorgio Ambrosoli, che era il liquidatore della banca privata. Un uomo straordinario, chi ne volesse sapere di più ha due libri fondamentali, quello di Corrado Stajama nel 1995, Onore Borghese, e quello di Umberto, che è uno dei suoi figli, Umberto Ambrosoli, che io Umberto, saluto bello. E abbraccio, Qualunque cosa accada, un libro del 2009, questo professionista milanese che in apparenza era quasi di seconda o di terza fila viene chiamato dalla Banca d'Italia nel 1974, da quella di Carli, a fare il commissario liquidatore della banca privata, e si trova al centro, viene chiamato proprio uno non di prima fila perché è al centro di una vicenda terribile su cui si incrocia Sindona, il suo tentativo di non far fallire la banca privata, la Banca Unione, a cavallo della Banca Franklin americana, e tutto il potere italiano dell'epoca, a cominciare da Andreotti, dalla DC, eccetera, eccetera, sta con Sindona, con la mafia, con la P2, tenta disperatamente di fare in modo che questo avvocato specializzato in segnalazione o atto amministrativa, nessuno lo credeva è un uomo capace di mettersi in mezzo. Lui si mette in mezzo invece, sostenuto solo da Ugo La Malfa e da Paolo Baffi, che subentra a Carli alla Banca d'Italia. Lo stesso Paolo Baffi e Sarcinelli verranno travolti dai magistrati fascisti andreottiani nel 79, quindi eravamo in un momento in Italia veramente in ginocchio, e il giorno prima di fare la deposizione finale di tutti i suoi atti viene ucciso a Milano. Ai suoi funerali non andrà nessuno per questo stato di conigli fascisti, e ci andrà solo Paolo Baffi della Banca d'Italia. Garantisco che aver vissuto quegli anni dava l'idea a chi aveva un'idea di Repubblica pulita, non in mano degli affaristi, eccetera. Ecco, persone come Ambrosoli sono per me, nella mia gioventù, indimenticabili. Spero che lo siano per tanti. Ho speso qualche parola in più, perdonami Alessandro, ma ne valeva la pena. Allora, alle 8:24 minuti, 800 24 00 24, questo è il numero di telefono. Vogliamo parlare di questo disegno di legge, conosciuto come disegno di legge Fiano. Forse avete capito oggi, se avete già preso i giornali, insomma, il disegno di legge che introduce un articolo 293 bis del codice penale per punire con reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque propagandi immagini o contenuti del partito fascista o nazionalsocialista, quindi partito nazista. Tra l'altro, Oscar, io mi sono sempre chiesto, ma due cose mi sono sempre chiesto. A, come è possibile che c'erano tutti questi gadget, le bottiglie di vino col duce, i saluti romani, eccetera, quando c'era la legge Mancino, la legge contro il fascismo? Quindi mi sono sempre chiesto questo. Però è diverso, cioè, voglio dire, le condotte penali oggi esistenti sono per la riorganizzazione del partito fascista, cioè anche la legge Scelba, poi per tutti gli atti di minaccia, istigazione a minaccia, istigazione al razzismo, eccetera, eccetera, eccetera. Il merchandising è un'altra cosa. Il merchandising è un'altra cosa. Infatti, però anche fare, che ne so, il saluto romano allo stadio, fare i raduni. Ti dirò che nonostante ciò non l'ho mai visto condannato. È molto delicato. Per esempio, io ho un rispetto assoluto per Fiano, per suo padre, che insomma è stato ad Auschwitz e così via. Detto questo, la mia opinione è che un conto sono le condotte penali che ci sono già, la penso un po' come il presidente emerito della Corte Costituzionale che ha scritto sul Messaggero oggi, Cesare Mirabelli. Altro conto è, perché ci sono sia quelle della ricostruzione del partito fascista, sia quelle degli atti minaccia, violenza o istigazione, sia quelle razziali, ci sono già, trasformando le due leggi. Rialimentare tutta la faccenda invece sulle opinioni fasciste, ma ecco, io sono dell'idea che il fascismo si replica e si sconfigge ricordando cos'è stato, non con le condanne penali. Se siamo alle opinioni, se siamo violenza, minaccia, eccetera, è tutt'altro. Sì. E comunque questa legge è stata ieri portata in aula, ci sono polemiche, molti la definiscono liberticida, definizione che ha fatto suscitare in Renzi la reazione a dire: ma come liberticida, semmai era il fascismo, non certo una legge contro il fascismo. In ogni caso, con noi c'è l'onorevole Emanuele Fiano, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno, Fiano, buongiorno. Partito Democratico. Buongiorno a voi. E con noi c'è anche il professor Alessandro Campi, che insegna la storia delle dottrine politiche a Perugia. Buongiorno, professor Campi, e grazie. Salve Giannino, buongiorno ai radioascoltatori. Eccoci. Allora, onorevole Fiano, intanto molte si chiedono, le ha viste le polemiche, cioè del perché di una nuova legge, di un'ulteriore legge, perché lei vede questa necessità? Sono tre motivi che mi hanno spinto a scrivere questa legge, peraltro non adesso, ma 2 anni fa, quindi fughiamo ogni dubbio che ci sia una coincidenza elettoralistica. Il primo è un motivo, se volete, anche simbolico. Ho trovato singolare che il codice penale del nostro paese, Repubblica, che si è fondata all'indomani di una guerra di liberazione dal fascismo e che ha una Costituzione repubblicana che prevede il divieto di ricostituzione del partito fascista, quindi una costituzione antifascista, non abbia messo in oltre 70 anni di storia nel codice penale direttamente questo reato. Voi direte, è un fatto puramente simbolico, sì, però ha una sua dignità storica. La seconda motivazione è che la legge, ho sentito credo prima Oscar Giannino, sì, che diceva delle cose parzialmente inesatte sotto il profilo. Non è vero intanto che questa legge colpisce opinioni, colpisce propaganda. Non c'è nessuna legge in Italia che potrebbe colpire opinioni, perché le opinioni sono difese dall'articolo 21 della Costituzione. E quello che mancava nella legge scritta nel 1952 da Scelba, un governo democristiano, in attuazione della 12ª disposizione finale della Costituzione, sono le modalità contemporanee di propaganda. La legge Scelba aggiungeva alla previsione di non possibilità di ricostituire il partito fascista prevista in Costituzione introduceva il reato di apologia del fascismo, quindi di difesa di quegli ideali, e anche citava però secondariamente il reato di propaganda. È una legge che ha avuto applicazioni molto discordanti tra loro, a fronte dello stesso evento, corti diverse, diciamo giurisprudenza di Cassazione sono state molto diverse tra loro, in alcuni casi si è ritenuto che alcuni atti o alcuni eventi fossero di propaganda, in altri casi no. E infine si è aggiunta poi negli anni '80 con la legge Mancino un'altra tipologia di ideologie la cui diffusione è vietata, che sono ideologie comunque razziste e discriminatorie. Certo. Non esisteva un adeguamento intanto alle forme contemporanee di propaganda, che sono principalmente quelle di internet, che io ho aggiunto, anzi come aggravante, e poi ho aggiunto anche che negli ultimi 20 anni, come dicono tutte le statistiche dei fatti rilevati, si è aggiunta una produzione, diffusione, distribuzione di oggetti, immagini. Che ecco, quando, per lei quella è propaganda? Cioè la bottiglia di vino è propaganda? No, ma appunto le stavo rispondendo. Quando quello è fatto per collezionismo, per storia, per personale raccolta, non c'è nessun problema. Il verbo che regge il codice che io introduco è unicamente quello di propaganda. Quindi quando lei svolge, come nella spiaggia di Chioggia, diffonde o fa vedere immagini del regime scritte, diffondendone, esaltandone il ruolo, quando scrive su una pagina Facebook, quando pubblica su una pagina Facebook e diffonde i discorsi di Goebbels, come fino a 2 giorni fa era possibile vedere su un sito Camerati Italiani, in cui Goebbels spiega il ruolo della razza ebraica nei mari del mondo degli anni 30, e ci scrive sotto: questa è esattamente la spiegazione di quello che sta succedendo oggi nel mondo con l'immigrazione. Quella è propaganda. Però capisce che non so, comprare 10 bottiglie, giusto per andare nelle cose pratiche, c'è una discrezionalità del giudice, perché poi io compro 10 bottiglie con l'effigie di Mussolini sopra, come faccio? Chi stabilisce se sto facendo propaganda, se sto collezionando 10 bottiglie di però vino. Mi perdoni, no, si stabilisce se di fronte Milan, però, a un omicidio in cui lui ha agito perché riteneva che ci fosse un'aggressione nei suoi confronti, ha commesso legittima difesa oppure omicidio colposo o omicidio volontario. Meno male che nella giurisprudenza, cioè nell'ordinamento, esiste la discrezionalità dei giudici. Purtuttavia noi dobbiamo c'è il telefonino che va e viene, onorevole Fiano. Adesso sono fermo. Purtuttavia io penso che si debbano contemplare condotte e avvenimenti che ai tempi di Scelba giustamente non esistevano. Guardi, in particolare, forse chi non frequenta per alcuni versi, non gli vengono fatte segnalazioni su quello che sta succedendo sul web e sulle pagine dei social, non ha idea di che cosa succede in Italia, e succede in forme molto ambigue, nelle quali è evidente che il confine tra una finta ricognizione storica e l'uso propagandistico di idee pericolosissime viene considerato con lassismo come completamente normale. C'è un'ultima questione, perché ho detto che erano 3, per la quale io mi sono mosso. Il contesto attuale di cui Oscar Giannino ci racconta così bene ogni giorno di disastro degli ultimi 10 anni di crisi economica finanziaria, che ha portato così tanto impoverimento non solo nelle classi più basse ma in tante classi medie della società occidentale, impoverimento, diseguaglianza, quello che vuole lei, a cui si somma il problema epocale e spaventoso dell'immigrazione, fornisce un terreno di coltura fertilissimo per far attecchire vecchi discorsi che tutti noi conosciamo e aborriamo, che derivano da quelle ideologie fasciste e naziste, che dicono la soluzione, la spiegazione di ciò che sta succedendo, il nostro impoverimento, il fatto che la politica sia tutta... No, no, ma è chiaro, sono posizioni... Perché Oscar, vogliamo sentire anche il professor Campi. Professor Campi, lei è d'accordo? Cosa obietta questa posizione? Guardi, le intenzioni che sono state appena esposte sono molto ragionevoli. Io sono un po' preoccupato dalle conseguenze e anche dal fatto che ci muoviamo comunque su un crinale molto molto delicato, in cui per esempio distinguere le opinioni dalla propaganda, la propaganda dall'apologia, in effetti è molto molto difficile. Un'opinione è quella che può essere espressa solo privatamente, ma allora smette di essere tale, se un'opinione non può essere esposta anche pubblicamente, per quanto la si possa considerare eccentrica, aberrante. La libertà di parola è tale nella misura in cui la parola è pubblica, no? Quindi dal punto di vista liberale questo è un problema serio. Esiste di questa legge che vada poi inevitabilmente a colpire opinioni che nel momento in cui vengono espresse oggettivamente diventano una forma di propaganda, no? Quindi mi sembra un confine estremamente labile e questo sicuramente è un problema. Poi altra questione, il collezionismo privato per ragioni di interesse storico lo ammettiamo, lo consideriamo possibile, però appunto anche lì fare la differenza tra collezionismo privato per ragioni di interesse storico e quello invece mosso da ragioni ideologico-nostalgiche, e d'altro canto se ammettiamo la possibilità che ci sia collezionismo di parafernalia, di immagini, di bottigliette, qualcuno questo materiale dovrà pur venderlo, allora non può essere venduto ovviamente in clandestinità, ci deve essere un circuito commerciale pubblico dove chi è appassionato di queste cose, chiaramente è un problema loro, deve poter attingere questi materiali. Ma questo è il meno, magari possono sembrare sottigliezze. Quello che mi convince meno è il fatto che innanzitutto togliere dalla rete, mi sembra poi di capire che l'obiettivo sia soprattutto questo, dal circuito della comunicazione web, queste frange lunatiche, che poi non impedirà a queste ultime di ricomparire da qualche parte. Non solo, ma demonizzare questi gruppi rischia di creare un alone che poi rende tutto questo ancora più suadente, soprattutto agli occhi dei giovani. Questo è un meccanismo psicologico che abbiamo già sperimentato. Secondo me il contrasto non deve essere fatto sul filo, tra virgolette, della repressione, deve essere fatto sul filo appunto della conoscenza storica, della persuasione, perché appunto ciò che è maledetto finisce inevitabilmente per essere attrattivo. C'è un meccanismo, ripeto, da questo punto di vista infernale che abbiamo già sperimentato, quindi dobbiamo anche stare attenti a che buone intenzioni poi finiscono per produrre cattivi risultati. Aggiungo un ultimo elemento, a me oggettivamente sembra ridondante questa normativa, è vero che si concentra su un punto particolare che ha a che fare con le nuove tecnologie, però c'è anche qui un principio liberale che andrebbe salvaguardato, bisognerebbe evitare l'ipertrofia normativa, proliferare di leggi che poi vanno tutte nella stessa direzione e rischiano di sovrapporsi. Secondo me le previsioni costituzionali contro la ricostituzione del partito fascista, la legge Scelba, la legge Mancino, già coprono a sufficienza, già bastano, tutta una serie di reati, non c'è bisogno secondo me di aggiungere questa fattispecie. Capisco il valore simbolico di introdurlo direttamente all'interno del codice penale, però ripeto, il rischio di ipertrofia, peraltro messo in evidenza da diversi costituzionalisti, mi sembra che ci sia. Posizioni chiare, Oscar. Posizioni chiare, dibattito che naturalmente invece nella politica prenderà e ha già preso tutt'altri toni, perché ci si dà di amici dei fascisti o di nemici dei fascisti, anche questo secondo me andava evitato. Capisco benissimo Emanuele Fiano che è convinto di quello che propone. Io penso semplicemente che appunto il fascismo si sconfigge ricordando incessantemente cosa è stato, che danni ha prodotto, qual era la sua ideologia, come è evoluta nel tempo, che strazio ha prodotto per gli italiani, per l'Europa, nel mondo. Nel senso che i discepoli di Fichte, rossi e neri, nel Novecento hanno prodotto centinaia di migliaia di morti nel mondo e nascevano dalla cultura, dalle frange della cultura europea, ripeto, discepoli di Fichte, quelli rossi e quelli neri. Ma detto questo, il problema è che questo labile terreno che evocava il professor Campi tra opinioni e propaganda è abbastanza labile davvero, nel senso che La propaganda dovrebbe essere restrittivamente intesa al fine di ricadere in quella fattispecie prevista dalla legge Scelba, cioè la ricostruzione di una forza politica con valori riconducibili al fascismo. Ecco, siccome non è mai o quasi mai fatta così, il rischio di apparire come perseguitori di opinioni è molto forte. Ecco, questo è il punto, ed è questo il motivo per cui da tanti giuristi a tanti intellettuali abbiamo dei dubbi. Tutto qui, evitando per favore di associarci a difensori del fascismo, tutto qui. E però è un punto un po' fondamentale, nel senso che, per esempio, viviamo in un ordinamento, ma questo Emanuele lo sa benissimo, Fiano, in cui fino a quando non abbiamo introdotto, e per fortuna dico io, l'espulsione amministrativa di imam compromessi o di figure di fondo del radicalismo islamico italiano, nelle corti italiane non veniva considerato, ed è avvenuto così per sentenza, per giurisprudenza, una prova sufficiente alla condanna, nemmeno il fatto che si rilanciassero filmati dell'ISIS eccetera eccetera, se non vi erano prove che si stavano commettendo o immaginando o organizzando reati e delitti in Italia. E ci sono fior di sentenze che hanno depositato. Ecco, noi, attenzione a non dimenticare che poi viviamo in una realtà ordinamentale un po' singolare. Abbiamo dovuto introdurre l'espulsione amministrativa, cioè fatta dai prefetti e dal Viminale, proprio per questo, perché non riuscivamo con le corti ad aggredire il problema. Quindi aggiungo questo, non vorrei che poi ci fosse uno strumento nuovo, di cui capisco la ragione e del proponente, che poi diventasse una fisarmonica nelle mani di una giusta discrezionalità, che però poi finisce per alimentare in Italia l'incertezza brutale. Queste opinioni mi spingono a essere dubbioso, però grande rispetto, vorrei che su questo si tenessero i toni, insomma, un po' diversi da quelli che troviamo sui giornali, Alessandro. No, ma infatti noi dobbiamo andare un po' in pubblicità. Meno male. Din, din, din. Soldi, soldi. Dobbiamo ringraziare l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico, il professor Alessandro Campi e gli ascoltatori. Ovviamente tra un attimo ripartiamo da voi. E forza, forza, forza, animo. State ascoltando un programma offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui alle 8:45 minuti. Ci sono un po' di ascoltatori, c'è Alberto da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Per cortesia avrei bisogno di un chiarimento, una domanda che mi sono sempre posto nella vita. Perché la Repubblica Italiana ha continuato a mantenere e continua ad applicare delle leggi fatte dal regime fascista per regime fascista? Me ne vengono in mente due, ma chissà quante altre che non conosco. La prima è il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza del 1938 e la seconda, mi corregga Giannino se sbaglio, la legge sul canone per gli apparecchi radiotelevisivi. Se potete darmi una risposta, è un regio decreto, infatti, sì, quello lì. Si figuri, ma il codice civile, il codice penale, come impronta, molte volte modificate, ma l'impronta fondamentale sono quelle. Perché sa com'è, gli ordinamenti in realtà della discontinuità vivono di continuità, da una parte, e dall'altra perché nel pensiero giuridico italiano tra virgolette il culto, che però è durato nella magistratura di Cassazione per fino agli anni 70, verso gli organizzatori giuridici dell'ordinamento fascista rimaneva altissimo, però per essere chiari, perché stavamo parlando di nomi straordinari nella dottrina e oltre che nella giurisprudenza del nostro paese. Tutto questo concorre a dare una risposta storica, naturalmente, alla sua domanda. Non era una volontà deliberata, però è andata così. Ma non capisco, Alberto da Torino, ma lei ci fa questa osservazione per dire che cosa? Perché ribalto la domanda. No, per carità, perché io mi sono sempre chiesto, il fascismo, per carità, io sono figlio di un partigiano della prima ora che era giovanissimo, 16 mm-hmm. anni, quando, quindi mi sono sempre chiesto, ma giustamente è stata una cosa negativa, ha fatto un sacco di cose che non andavano bene, però un sacco di leggi sono state mantenute perché faceva comodo e perché comunque, anche se avevano tolto libertà alla gente, faceva comodo continuare a togliere libertà alla gente in quella maniera lì e a continuare a passarle. però non ne sento mai parlare, anche quando si parla del canone. Io per lavoro mi trovo a che fare con spesso dover, diciamo, consultare il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. E si riferisce, vedo che a quel periodo lì. No, ma è chiaro, vabbè, perché sono state fatte, guardi, non sono state aggiornate. Guardi, scusi una cosa, perché il problema è sulla libertà, lei ha 100 volte ragione, però guardi che il fondamento, cioè il principio dello stato etico, lo spiritualismo di Gentile, lo spiritualismo è di Hegel, accomuna anche coloro che combatterono il fascismo da questo punto di vista. Sto parlando del fondamento filosofico dell'idea dello stato etico, e anche questo aiuta a spiegare molto. Quindi sa, attenzione, perché non hanno vinto i liberali individualisti. La Costituzione è figlia di un approccio di convergenza tra grandi filoni storici, quello cattolico, socialista e comunista, che ha l'idea dello Stato e lo Stato iperetico, anche se i cattolici avrebbero dovuto battersi sulle idee di Sturzo. Quindi questo aiuta a capire perché in grandi pezzi dell'ordinamento fascista la Repubblica ha trovato continuità, ahimè. C'è Giorgio da Pisa, buongiorno. Buongiorno a voi. Io mi pongo anche una piccola domanda da ignorante. Allora, in Europa nei primi del Novecento c'erano tre ideologie proprio tragiche, che hanno fatto tanti morti: nazismo, fascismo e comunismo. Non capisco perché non bisogna condannare anche il comunismo a questo punto. Lei la pensa come, Brunetta. Hanno vinto la guerra e allora tanto di cappello, non lo so. No, ma non è tanto Brunetta di cappello. Proprio, a me non mi interessa. Ma no, però... nel senso dico, la pensa come Brunetta, perché Brunetta ieri ha fatto proprio questa osservazione. Però anche qui facciamo una legge, cioè, abbiamo 80 anni di storia alle spalle, ricordiamo. Sì, certo. Da noi c'è stato il fascismo, non il comunismo. Un pezzo di questa risposta è quella che ha dato lei, perché si allearono con le potenze anglosassoni, eccetera, e senza di loro non ci fu, non c'era la vittoria contro il nazismo. Poi perché il comunismo e il socialismo animano non solo la guerra contro il fascismo, ma continuano ad animare la vita politica delle democrazie, e anche questo fa la differenza. La storia è complessa, non ce la dimentichiamo, ma non riduciamola così a formulette. Diciamo che no? Giorgio forse dice, perché non condannare altri totalitarismi? Sono d'accordo con lui. Però Giorgio, diciamo, sa, in Italia, poi siamo tutti figli della nostra storia recente, in Italia c'è stato il regime fascista, non c'è stato il regime comunista, fortunatamente, e quindi diciamo che c'è una maggiore sensibilità a condannare il fascismo, visto che l'abbiamo sperimentato. Diciamo, per esempio, la grandezza di Giovanni Paolo II era che, avendo sperimentato lui e il suo paese, la Polonia, la violenza e lo sterminio di entrambi i colori, li accomunava. Ecco, e ognuno ha finito la sua storia. Però la domanda legittima, giustamente, di Giorgio. C'è Marco da Milano, buongiorno. Milano, buongiorno. Buongiorno, ciao, sono Marco, vostro fedele ascoltatore. Bene. Ciao. Ascolta, io sono anche parte in causa in questa situazione e un esperto del settore, tra virgolette, se volete definirmi così. E ti spiego perché, a mio sommesso avviso, la proposta di Fiano è una cagata pazzesca, scusate l'espressione fantoziana. Proprio, sì, più che fantoziana. Faccio Fantozzi passiamo di cognome, la... Allora, signor Marco Fantozzi, sì, guarda, allora guardi, gliela passiamo solo per questo. Va bene, una battuta. Allora, io sono un piccolo collezionista e anche un rievocatore storico. Noi tutti gli anni partecipiamo alla famosissima, fortunatamente, manifestazione della Colonna della Libertà, le manifestazioni del 25 aprile, con, tra le altre manifestazioni che facciamo, con rievocatori storici sia degli eserciti alleati che quello dell'asse. Già così abbiamo dei problemi con alcuni sindaci quando passiamo in alcuni comuni, che ci rifiutano il passaggio, dobbiamo scegliere altri sindaci meglio disposti, perché all'interno della manifestazione ci sono le truppe dell'asse con le loro uniformi, con le loro armi, tedeschi. Addirittura abbiamo dovuto anche, per, come posso dire, evitare troppi attriti, non far partecipare unità in uniforme da fasciste, Repubblica Sociale piuttosto che SS, mettendo invece Wehrmacht, Afrika Korps, diciamo, il Regio Esercito. Allora, qual è il problema? È che una visione miope di questo tipo va anche in qualche modo lasciando alla discrezionalità al giudice eventualmente, va anche a inficiarti un sacco di manifestazioni storiche che sono interessantissime e apprezzatissime. Ti faccio un esempio, sì. È come se tu dicessi facciamo la manifestazione, facciamo la rifiutazione della guerra civile americana, nordisti e sudisti, ah no, i sudisti no perché tenevano i negri e quindi è un'apologia del razzismo. Secondo me è veramente una pirlata. Insomma, Marco, magari fatta con le buone intenzioni, vabbè, però è una pirlata, perché sicuramente va. Sì, sicuramente le buone intenzioni sì. No, ma è chiarissimo, Marco. Marco. È stato chiarissimo. Però così, se no, non diamo spazio anche agli altri ascoltatori. Oscar, che ne pensi qui? Dice sì. E penso che ci sia. C'è una parte della politica che vive questa roba come eterna militanza ed è incapace, ma soprattutto è convinto che non si debba storicizzare. Ecco, questo è il punto. E io posso rispettarla, non la condivido, ma posso rispettarla. Per me, liberale, le opinioni più le si porta in tribunale, più si tende a renderle, a martirizzarle e a quindi a perseguitandole. A renderle ovviamente piene di fascino. Ecco, io, le opinioni non si portano in tribunale. Questa è la mia opinione. E la differenza tra opinioni, propaganda, se non c'è, ripeto, una forza politica esplicitamente riconducibile a ciò che c'è già nella legge penale italiana, attenzione, perché diventano un'arma per fare politica. Questa è la mia opinione, non la cambio, è l'idea classica di un liberale su questo, come il Ku Klux Klan, cioè il Ku Klux Klan negli Stati Uniti non è mica reato, un delitto essere neanche partecipe al Ku Klux Klan. Se come partecipe al Ku Klux Klan metti in atto condotte violente eccetera eccetera, finisce alla sbarra. Questo però ce l'ha detto anche l'onorevole Fiano, almeno l'inizio è così, cioè nessuno vuole come dire, non si può fare una legge contro la libertà di opinione. No, ma il problema è che con questa legge si aprono i fascicoli se qualcuno sui ragazzotti che su internet dicono quando c'era il Duce, ecco, allora quello significa creare un fenomeno. Lì infatti è la questione della discrezionalità. Se io dico quando c'era il Duce le cose andavano meglio, è propaganda o è un diritto a dire un'opinione? Questo e si sa che in Italia poi ci sarà il giudice che penserà che è un no, non è che cioè siamo in un paese di magistratura lontana da fare valutazioni di questo tipo eccetera eccetera, come la anche questione questo. Anche di Chioggia, se volete, lo stabilimento, cioè mettere ordine e disciplina, che erano tra le varie tra i vari, come dire, mantra del fascismo, è propaganda o è Una maniera per attirare un certo tipo di clientela, perché poi questo è di fondo. Esatto. Oppure anche dire io voglio ordine e disciplina. E chi non vuole non ci va. Voi mi dite no, in un luogo pubblico però, sì, ho capito. E cos'è, una sezione di partito? Non è una sezione di partito, no? Bisognerebbe stare un po' attenti. Certo, io non ci andrei mai in un posto dove uno mi fa il discorso ogni mezz'ora come ho letto. Però detto tutto questo... Vabbè, c'è gente che è attratta anche da quello. Va bene, dai, dobbiamo andare un attimo al giornale radio e riprendiamo fino alle 9.30, siamo in diretta, riprenderemo dagli ascoltatori, anche Carlo da Milano, chiediamo un attimo di pazienza, state lì. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee, se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestie in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19.10, qui su Radio 24. 24 mattino, attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, fino alle 9.30, fino a fine luglio, sempre in diretta noi. Cioè, no, nel senso noi come tutti gli altri Radio 24. Carlo da Milano, che ringraziamo per la pazienza, eccoci. Figuratevi, buongiorno, è un piacere poter parlare con voi. Eccoci. Ho sentito le motivazioni di Fiano di questa mattina. mi hanno dato una nuova chiave di lettura, devo dire che mi hanno convinto, però secondo me il problema è che ai nostri giovani non viene insegnata la storia recente, cioè mi spiego meglio, vuoi fare una legge contro l'apologia del fascismo eccetera, molto bene, però sarebbe più bello se le persone fossero in grado di capire fino in fondo che schifo è stato il fascismo, il nazismo, le dittature in generale. Io ricordo, io ho 50 anni, ricordo quando ho fatto le superiori che le ultime 50 pagine di libro di storia, perciò dalla fino alla prima guerra mondiale in avanti, erano un tonse, perché si correva. Mia figlia ha 24 anni, non sa nulla di cos'è stata la seconda guerra mondiale. Forse se le scuole insegnassero un po' di più, ma secondo me sì, anche il passati. Programma degli ultimi 50 anni, 70 ma anni, certo, 80 anni. Se nominasse e chiedesse a un ventenne, 23enne, 24enne, chi era Aldo Moro, fatte poche eccezioni che lo sanno, oppure chi era, che ne so, Malcolm X, JFK. Buio totale. Buio, sì. Ma è lì, è la scuola che deve intervenire. Se io insegno ai nostri ragazzi che cos'è stata la dittatura fascista, comunista, nazista, ce n'è purtroppo, ce n'è, allora loro avranno la capacità di sapere, capire che se io trovo un cartello di un bambino che dice diventa una cosa magari goliardica, oppure avrà la capacità di discernere. Allora, è chiaro, lei Carlo dice non è solo con una legge che si sistemano le cose e su no, questo... infatti è prima con la storia, questa è la mia stessa idea. Ma devo dire, forse le persone non lo sanno, Oscar, noi abbiamo detto appunto che Emanuele Fiano ha un papà nido Fiano, sopravvissuto di sopravvissuto, Auschwitz, unico della sua famiglia sopravvissuto ad Auschwitz, ovviamente ha molti anni, insomma è molto acciaccato, diciamo così, però ecco, tutto si può dire, per esempio non della famiglia Fiano, che non faccia anche un'opera, no, visto che Nido Fiano ha girato per centinaia, certo, centinaia di scuole, scuole liceo, no, ci insegnando ai ragazzi con la propria esperienza, assolutamente la storia vissuta sulla propria no terra. Io credo che Emanuele sia molto colpito dal fatto che in rete no, la cosa abbia un grande impatto, e credo che poi nella sua testa questo significhi anche poi che sia diventato uno strumento per convogliarli in partiti politici, naturalmente. Sì, perché se legge come leggerà i giornali di oggi, vedrà titoli proprio molto duri nei confronti su questa sua proposta. Però ripeto, noi siamo un paese in cui i giudici mandavano assolti gli islamisti che pubblicavano i video delle decapitazioni, cioè è molto singolare, perché siamo un paese un po' selettivo da questo punto di vista, in particolare perché il fascismo è nato a casa nostra. Secondo me la storia prevale sul codice penale. Ripeto, ci sono due leggi chiare sulle condotte penali, le opinioni io le combatto con la storia, però questa è un'opinione mia. C'è Franco da Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io mi riaggancerei al signore che faceva le rievocazioni, no? Sì. Per la mia esperienza, io sono appassionato di modellismo. Sì. Io faccio macchine da corsa, però se lei compra un Tigre o uno Stuca, al giorno d'oggi glielo vendono senza svastiche, senza niente, perché non è politically correct, no? Analogamente, se faccio la McLaren di Senna dell'88, non c'è Marlboro. Sì. E secondo me è più il politically correct che l'ideologia che... No. Su questo secondo me lei ha ragione, perché non credo che una croce uncinata su un modello sia propaganda da proibire penalmente. Però e quindi Franco, lei dice c'è, cioè, vede una c'è il politica lì corretto dappertutto. Poi se si unisce alla politica fa dei danni epocali, tutto lì. Va bene, Franco. Se posso agganciarmi al signor Carlo di prima, ha pienamente ragione, però le scuole non sono tutte uguali. Io lo storia al liceo classico l'ho fatta in modo pessimo, però alle medie ho avuto un professore splendido che ci ha fatto fino all'ultimo giorno, ci ha fatto tutte le teorie economiche, tutte, marxismo, luddismo, liberalismo, la teoria economica della Chiesa. Plauso perché è andato su Mussolini, pro, contro, eccetera, eccetera. Plauso a questo insegnante, come dire, non tutti gli insegnanti sono uguali, quindi giustamente Franco nota la differenza. Va bene, e vi ringraziamo, vedete che poi il tema ha appassionato molto, con divergenti opinioni, come sempre. Io devo dire che posso dire che ho avuto un maestro straordinario in quarta e quinta elementare, maestro Dominici, che è ancora a Torino eccetera eccetera, che ebbe questo stesso taglio. È incredibile a dirsi, siamo diventati tutti anziani, e continuiamo a riconoscere generazioni di studenti che sono passati, ripeto, scuola elementare, nel mio caso era quarta e quinta elementare, pensate un po'. Ma cosa ti ha insegnato in quinta elementare? Siccome tabelline, era, no, era una, noi vivevamo in quartiere operaio, te l'ho detto, eccetera eccetera, trovò il modo di iniziarci ad alcune cose fondamentali sulla storia del Novecento, e questo era la scuola elementare, perché dice, se no non capite qui dove vivete voi, perché ci sono quelle bandiere qui, cosa sono quegli altoparlanti. Giustamente. E fu per noi una cosa che tutti ricordiamo a distanza di decenni. Pensa un po', scuola elementare. Allora, cari ascoltatori, cambiamo tema, parliamo anche di un'altra vicenda. C'è sui giornali questo numero che troverete, 502. Sai che non è la Fiat 500, no. Oscar? Sai cosa sono 502? Sono i parlamentari che da inizio legislatura hanno cambiato gruppo, cioè sono entrati in Parlamento e facevano parte di un partito e quindi di un gruppo parlamentare. E vabbè, come vengono definiti? Volta Gabbana, hanno cambiato casacca, tutto legittimo, è l'articolo 67 della Costituzione, se ricordiamo. Senza vincolo di mandato. Il parlamentare non ha vincolo di mandato, quindi può cambiare anche ogni giorno volendo. Diciamo che si potrebbe evitare che nei regolamenti parlamentari, cioè rispettare il fatto che è ovvio il parlamentare può uscire, però basterebbe dire che se cambia idea rispetto a dove è stato eletto, ai nuclei formati in coerenza alle liste elettorali, perde il sostegno alla segreteria, eccetera, eccetera. Ecco, questa per esempio è una basta delle proposte. Una banalità di regolamento elettorale, non concedere formazione di nuovi gruppi in esenzione al tetto minimo di previsto dai regolamenti, che invece regolarmente viene violato. Banali cose di regolamento basterebbe. Comunque, Vincenzo Smaldore, che è responsabile editoriale di Open Polis, che ogni tanto esce con queste ricerche interessanti. Buongiorno Smaldore. Buongiorno. E grazie di essere qui. L'ultima riguarda proprio questo. Sono 502 o nel frattempo dobbiamo aggiornare, nel senso che a quanto risale questa? 2-3 giorni fa, credo. No, oggi già abbiamo un nuovo aggiornamento. Eccoci. Quindi? Sì, perché tra l'altro, anche accogliendo un po' una nostra richiesta, il gruppo di civici innovatori è stato sciolto perché non aveva più il numero minimo di componenti necessario a essere un gruppo, e quindi quando un gruppo si scioglie tutti i suoi componenti vanno a finire nel gruppo misto, e quindi diciamo ci sono nuovi cambi di gruppo. Quanto è il limite per il gruppo? Cos'è, 20 alla Camera? 20. Ma fondamentalmente la questione è questa, che diciamo, pur non mettendo in discussione l'assenza di vincolo di mandato, quindi il fatto che il parlamentare sia libero di esercitare il suo mandato liberamente, però c'è da dire che in questa legislatura il fenomeno dei cambi di gruppo ha avuto una dimensione tale da oggettivamente rappresentare un problema. Perché rispetto alla scorsa legislatura, che dati ci sono? Beh, siamo già al doppio dei cambi di gruppo, ma poi la scorsa legislatura, appunto, è una legislatura finita, questa invece ancora no, e quindi il dato non potrà che aumentare ancora. Cioè, ci sono già il doppio cambi di casacca rispetto alla scorsa legislatura, e mancano ancora 7-8 mesi. Sì, che tra l'altro si annunciano interessanti da questo punto di vista, perché poi con l'avvicinarsi un sabba demoniaco, ecco, l'avvicinarsi delle elezioni diventa frenetico, una specie di magnetico fenomeno di riallineamento verso chi forse ti dà un posto, o no? Potrebbe darsi, ora non vogliamo essere infausti nelle previsioni, però c'è da aspettarlo. Guardate, secondo noi due gli elementi principali da evidenziare. Il primo è che con questo numero così elevato di cambi di gruppo il cittadino perde completamente traccia di che fine ha fatto il suo voto. Il cittadino elegge dei rappresentanti attraverso delle liste elettorali, e poi il suo rappresentante proprio lo perde di vista, perché va a finire in gruppi di cui non si sa nulla, anche non si sa neanche il nome, perché cambiano anche con una certa rapidità. Ecco che, quindi diciamo, il tradimento, se vuole, il primo punto è un tradimento del voto, no, della fiducia. La seconda questione è invece più di trasparenza proprio di quello che succede in Parlamento, cioè se noi abbiamo un sistema che vota le leggi, si occupa dell'interesse generale del paese, dobbiamo avere come cittadini la capacità di essere informati su quello che succede in Parlamento. Ora, se le attività dei parlamentari sono strutturate attraverso dei gruppi che non si conoscono, ecco che perdiamo dei passaggi chiave. Cioè, noi abbiamo avuto in questa legislatura dei parlamentari magari decisivi in alcune fasi, decisivi su alcuni provvedimenti, ma che non rimane nell'opinione pubblica traccia di ciò, perché facevano parte di un gruppo e poi di un altro. Però Smaldo, restia con noi, perché vogliamo salutare il capogruppo del gruppo misto, l'onorevole Giuseppe Pisicchio. Buongiorno onorevole, grazie di essere qui. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Quanti siete alla fine nel gruppo misto al momento? Guardi, siamo 63 oggi, appunto, come ricordava adesso l'interlocutore, ha parlato prima di me, con i civici e innovatori che non sono più gruppo, c'è la confluenza di 13 nuovi parlamentari, quindi 63. Anche se devo dirle, se mi permette, non è il numero massimo raggiunto dal gruppo misto, perché abbiamo avuto in passato, nella tredicesima legislatura, quella 96-2001, per esempio, a chiusura di legislatura erano 94. No, vabbè, questo non l'abbiamo detto. Però c'è stato il maggior cioè c'è stato già il doppio rispetto alla scorsa legislatura che hanno cambiato casacca. Sì, alcuni certo, sono gruppi attualmente, gruppi nuovi, gruppi ancora non in c'è dubbio, ma questo approccio, che pure è giustissimo dal punto di vista della verifica della numerosità, non dice una cosa fondamentale, che tutto questo avviene quando si realizza il crollo della forma partito. Cioè, la verità, noi stiamo parlando per la verità di un fallimento dei partiti politici che non esistono più. Ci sono delle liste, lei pensa, all'inizio della legislatura avevamo un panorama di liste che produssero gruppi parlamentari che per la metà si è modificato, creando per partenogenesi nuove situazioni. Così, però i partiti, non so, Oscar, io ricordo, i partiti che c'erano all'inizio del voto, so, Forza Italia, avranno avuto delle crisi. No, si chiamava PDL ed era una cosa molto più complicata. Il PD. C'era PD. Dentro Alfano, c'era dentro Chitto, c'era il dentro l'Ira. Il PD c'era, questo sì, però il PD c'era, il Movimento 5 Stelle c'era. PD, 5 Stelle, La Lega. E non Forza Italia, perché era un'altra cosa. Era un arcipelago di partiti. È un dato. Non nascerà solo da lì il problema, dal crollo del Popolo della Libertà e la divisione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Ma non nasce solo da lì, ma nasce un po' da tutto. Continuo a dirle, in fondo il gruppo misto è il termometro della difficoltà che vivono i partiti politici. Nella cosiddetta però, Prima Repubblica... Però, Pisicchio, scusi, io potrei anche dirle, lei dice i partiti, ok, perché di là si origina poi il fenomeno del cambio, ma io potrei dirle, per esempio, è frutto di leggi elettorali e di una forma di governo che ci si ostina a non cambiare, perché noi andiamo avanti di governo in governo ogni volta con invenzioni che posso capire del Quirinale, e ogni volta appesi a poche decine di parlamentari, che ovviamente vedono a quel punto, rispetto alle liste in cui sono stati eletti, crescere il loro, tra virgolette, mi intenda, valore marginale, se vanno in soccorso di maggioranze di questo tipo qua. E noi purtroppo dal 2011 in poi così stiamo andando avanti, sono passati 6 anni, ecco, per dire, abbiamo avuto un'elezione ma dopo la quale si è ripresa questa pratica, ecco, allora sì, sono i partiti, però è proprio l'assetto istituzionale, e il fatto che ogni volta ci si inventa una legge elettorale diversa da quella che nel resto del mondo civile funziona, adesso neanche c'è. Ma per dire, un esempio pratico, Pisicchio, scusi, civici e innovatori, io non li conosco, tu sai, Oscar, chi sono, cioè nel senso, ecco, civici e innovatori non esistevano 5 anni civici fa. Civici e innovatori chi sono? Cioè, una delle anime del partito, che, o meglio, della lista, non può parlare di partito della per lista, questa ragione, giusto. Esistenza del partito. Che lista era? Che si presentò con Dini. Dini aveva sua identità, Scelta Civica, che poi si è frammentata in tre componenti almeno. Allora, però ecco, cosa risponde al rappresentante di Open Policy che dice è una sorta di tradimento del voto, detto che è tutto legale, l'abbiamo detto mille volte, non c'è il vincolo di mandato, però si tradisce il voto. Se mi lascia parlare glielo dico, se mi lascia parlare glielo dico, tombo a dire quel che dicevo prima, che cosa ha votato la gente nell'ultimo giro elettorale e da quando in qualche modo si è insediata quella perversione che si chiamava la legge Calderoli o il Porcellum. Ha votato delle liste all'interno delle quali non ha potuto compiere nessuna scelta, liste indicate solo dai capi. Sì. Quindi il corpo elettorale non ha espresso nessun voto. Perché dico questo? Io sono molto d'accordo sull'analisi che veniva fatta con riferimento in modo particolare a leggi elettorali sbagliate o comunque fatte male. Perché è evidente, nella Prima Repubblica, tanto per fare un riferimento concreto, per esempio, il fenomeno delle transumanze non esisteva, non è mai esistito, salvo che... Limitatissimo, certo, ha ragione. Ma quando c'era la scissione del sì, manifesto del Partito Comunista, era un fatto ideologico, una cosa seria, una cosa sofferta. Nella cosiddetta Seconda Repubblica, a partire dal 96, Turbion, noi abbiamo avuto un'esplosione pazzesca. Perché? Perché già il collegio uninominale rappresentava una posizione di relativo controllo da parte del corpo elettorale, cioè il corpo elettorale controllava il proprio eletto e quindi poteva risalire, poteva verificare il percorso che questi realizzava all'interno di un'esperienza parlamentare, sanzionandolo evidentemente se non si comportava adesso bene. Adesso ci stai dicendo che si è rotto questo rapporto diretto, cioè dell'elettore che vota il parlamentare. Questo è il dato di fatto. Evidentemente si è rotto questo rapporto. Però insomma, certo che sono tanti. Non so, Smaldore, ha sentito le obiezioni del Pisicchio? Due tipi di considerazione. La prima di carattere più culturale. Secondo me negli ultimi anni nell'opinione pubblica è diminuita la consapevolezza che il cambio di gruppo non è un comportamento virtuoso. Il politico lo può fare dentro la legge, tutto quanto, però non è una buona pratica della politica. Allora questo deve essere chiaro, deve essere evidente, e quindi anche quando i segretari di partito lanciano determinate operazioni, il giudizio che si deve fare deve tener conto di questo. Faccio ad esempio riferimento al PD a guida renziana. Quando Renzi è diventato segretario del PD, nella prima direzione che fece, lui disse: io immagino un PD diverso, un PD 2.0 che vada da Andrea Romano a Gennaro Migliore. Non erano nomi a caso, ma erano i capogruppi alla Camera rispettivamente di Scelta Civica e di SEL. E in effetti, e poi quindi, sono entrati nel partito. Questo è successo. Ma quindi lui dichiara pubblicamente, voglio dire, diamo inizio alle danze, no? Sì. E quando lui dichiara questa cosa, fondamentalmente non c'è una riflessione nel dire sì, però un attimo. No? Noi abbiamo votato, cosa sta succedendo? Però vede adesso io le faccio la controobiezione. Il problema è che non ci sono più riferimenti fissi. Cioè, scusi, Renzi da due giorni dice sul Fiscal Compact quello che Salvini dice da anni. Dice sull'immigrazione non tale quale, ma delle cose simili a quelle che chi ha criticato brutalmente i governi guidati da Renzi dice da anni. Sa, in un momento nel quale, in anni nei quali i partiti giocano con idee di fondo della politica, come gli abiti che si indossano e si dismettono ogni giorno, è difficile usare questo metro. Secondo me una delle parole più usate in questo periodo sono le fake news. No? Sì. Secondo me i partiti italiani sono generatori di fake news perché hanno dimenticato alcune buone pratiche che erano quelli della responsabilità, della coerenza, della capacità di spiegare il loro punto di vista e di portare i cittadini su quel tipo di ragioni, no? Quindi se vogliamo far finta che il Fiscal Compact sia stato calato dall'alto dalla Merkel, è stato votato, poi non è da evidente tu, che non è da stato tu. Votato, è stata cambiata la Costituzione per inserire il pareggio di bilancio in Costituzione, quindi sappiamo anche quanto è lungo l'iter per modificare la Costituzione. Sì, no, e quindi come dire, no? No, ma è chiaro io che inviterei i partiti a un atteggiamento più retto, ma insomma sulla coerenza anche questo c'è da dichiarare. I partiti se ne fregano, sa, dei nostri inviti alla coerenza, per così dire. Però insomma il tema è molto ampio, non abbiamo avuto modo di affrontare anche un altro dato, ma lo diamo solo così, sempre da Open Polis. Sai quanto hanno preso i giornali di partito negli ultimi 15 anni? 230 milioni negli ultimi 12 anni, e tra l'altro sono quasi tutti falliti. L'Unità è l'unico, l'ultimo in ordine di tempo, la Padania è il secondo che ha preso più e non c'è più, il Secolo d'Italia non c'è più, cioè quelli che hanno paradossalmente che hanno preso più soldi dai contributi pubblici non ci sono. Come si vede, no, i sussidi sono sempre sbagliati, ripeto, ai giornali che non ci sono e a quelli che ci sono. Io sono contrario ai sussidi sempre. 238 milioni ai giornali di partito in 12 anni. Questo è sempre il dato che Open Polis ha tirato fuori. C'è Paolo da Novara, velocissimo però Paolo, perché buongiorno. Sì, veloce, volevo solo fare un passo indietro sull'argomento precedente. Sì, io penso che l'antifascismo o l'anticomunismo che si voglia si può combattere molto bene facendo un programma adeguato, scolastico, dando l'informazione. Anche perché comunque ci sono tante informazioni che vengono pescate così di sana pianta dalle pagine elettroniche che invece possono essere facilmente manipolate perché purtroppo non è carta stampata e lì si leggono tante castronerie e purtroppo la gente se le beve tutte. Invece... Però non è che cioè, nel senso, non sono conflittuali le due cose. No, nel senso non sono conflittuali. Voglio ricordare anche l'onorevole Fiano dice facciamo la legge e non insegniamo nelle scuole. Attenzione a non dimenticare che poi nella storia della cultura italiana noi abbiamo avuto manuali improntati al marxismo, cioè i manuali che sono andati per la maggiore negli anni, dalla fine degli anni 60 in poi, così è stato, quindi anche lì, e non mi scandalizzo, perché è ovvio la cultura ha delle impronte culturali, ma in Italia la battaglia per l'egemonia è stata fortissima, cioè c'erano dei manuali di filosofia e di storia che erano totalmente marxisti, non mi scandalizzo, sono completamente d'accordo con il nostro ascoltatore. È chiaro che la cultura, come dire, è quella che si fa tutti i giorni, soprattutto nelle scuole, è la base. Certo. Ovvio. Quello che vuole l'onorevole Fiano è colpire la propaganda. Comunque il tema è aperto. Chissà se poi questa legge, anche questa, passerà. Ma comunque continueranno le polemiche, non è questo il punto. Ma però, secondo me, oggi posso dire, abbiamo tenuto il tono giusto, però. Perché tutti gli argomenti sono stati svolti senza scadere nella cosa. Ma allora difendi i fascisti, allora sei contro. Ecco, no. Allora dai, ci troviamo domani, ringraziamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Chiara Compagnoni in redazione, Peter Bescapè in regia e forza! Forza! Ma non abbiamo commentato gli assegni del Milan, però ne parleremo domani. Ma gli assegni del Milan saranno in bianco scoperti. Ciao, a domani!